Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Alessandro Balia in redazione, Fabio Cantadore in regia, e festa finita anche per voi. Per quanto ci riguarda siamo tornati a pieno regime, Tempo di Sport 7 giorni su 7, da oggi fino a domenica e da lunedì fino a domenica, e andremo sempre avanti così. Torniamo con prove tecniche di campionato e con un mercato alla stretta finale che da sogno estivo adesso per qualcuno comincia a diventare assillo, se non addirittura incubo. Dunque, trofeo Berlusconi per quel che può contare, e di solito il trofeo Berlusconi conta. La patente, signor giudice. Voglio perdere la causa. Sono andato io stesso dall'avvocato avversario a dare i documenti irrefutabili di tutti i fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente la mia fama di etatore. E inoltre, signor giudice, ho dato i nomi di tutti coloro che possono testimoniare. Eh sì, infatti li ho interrogati. Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza terribile, che oramai è l'unico capitale che mi è rimasto. Ah, un bel capitale, povero chiacchiero. Voglio la mia patente, la patente di iettatore, contanto di bollo, legale. Iettatore patentato dal Regio Tribunale. Ma cosa se ne fa? Che me ne faccio? Lo metterò sui miei biglietti da visita. Ah, le pare poco a lei. La patente sarà la mia professione. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. In attesa di stabilire se pure stavolta il successo nel trofeo Berlusconi porterà sfiga in chiave scudetto, il Milan ribadisce la legge del più forte nei confronti di una Juve ancora in fase di assemblaggio, stordita e irrisa fino all'intervallo, poi più reattiva. In una ripresa in cui i rossoneri, va oggettivamente ammesso, si sono dovuti anche arrangiare con uno schieramento sempre più rimaneggiato. Lo scrive Alberto Costa, firma di punta del Corriere della Sera. Ciao Alberto, grazie. Ciao. Aspettiamo chiaro, lo iettatore per questo trofeo Berlusconi. Cosa dici? Potrebbe essere l'anno della Juventus, che a me non dispiace come organico, mi lascia perplesso il manico. Non ci siamo messi d'accordo prima, ma la penso sostanzialmente come te. Ero curioso di vedere la Juve all'opera ieri dal vivo e devo dire che sono rimasto abbastanza perplesso, perché se dobbiamo sintetizzare la partita di ieri possiamo dire che un Milan al 50% e poi anche al 40% nella ripresa, al finale del primo tempo, visto che ha perso pure Boateng, Taivo e Nesta, ha battuto una Juve che dovrebbe essere, diciamo, al 90% come organico, a parte qualche ritocco che pare arriverà negli ultimi giorni. Sono perplesso anch'io, il manico, perché io ho sempre diffidato di quegli allenatori per i quali conta solo il modulo. Bravissimo. E i giocatori che hanno a disposizione o si piegano a quel modulo oppure devi fare una campagna acquisti più o meno faraonica, comunque svendere quelli che hai, certo, strapagare dei nuovi. Quando, facciamo un esempio pratico della Juve, io non capisco perché Conte, con l'organico che si è trovato a disposizione, non abbia innanzitutto cercato di puntare su una squadra logica per quello appunto che era i giocatori che lui si è trovato, vale a dire Pirlo, si sapeva da tempo che sarebbe passato la Juve se non avesse trovato l'accordo col Milan. Quindi io, Aquilani era già in casa Juve, non capisco perché non si sia puntato su una mediana tipo Marchisio, Pirlo, Aquilani, e con questo Vidal che, da quello che ho capito, è soprattutto sostanzialmente una mezzala, visto che è un ragazzo che ha segnato 10 gol nella Bundesliga l'anno scorso, quindi ha una propensione offensiva. Non capisco perché giocare in maniera, non dico più semplice, ma in maniera molto più aderente ai giocatori a disposizione, con un 4-3-1-2. Certo. Invece l'idea, che è quella del 4-2-4, e poi avrei da discutere anche di questo, Vidal deve finire all'ala sinistra, all'esterno sinistro di centrocampo, dove ieri è scomparso. Sì. Ma, se mi consente l'ultimo come punto, no. 4-2-4, qui ci si riempie la bocca con novità eclatanti e tutto, il 4-2-4 della Juve vista ieri altro non è che il 4-4-2 che giocava Del Neri, quindi sì, mi dovrebbero spiegare dov'è la differenza. Sì, con gli schemi si prendono in genere nella fase difensiva quando gli avversari attaccano, la Juve ha giocato un 4-4-2 classico. Certo, con dei giocatori palesemente fuori ruolo, hai citato Vidal che si guardava intorno con un pulcino e un branco di rupi. Con Vidal fuori ruolo, come ti ho spiegato prima, e poi se davvero Conte volesse giocare un 4-2-4, quindi un gioco molto dispendioso, il ritmo, la velocità dovrebbe essere leggermente diversa da quella vista ieri. Poi sicuro, la Juve nel secondo tempo ha avuto una mezza fiammata, ma teniamo presente che è riuscito a fare il suo unico gol quando Nesta era fuori uso. Era fuori uso per la Zucca. Era in 10 e Vucinic è riuscito a toccare l'unico, un bellissimo gol, devo dire la verità, quando però Nesta non c'era. Io credo che Vucinic sia un super giocatore, continua ad avere una stima profondissima per questo giocatore, che secondo me è uno dei è uno dei migliori attaccanti in circolazione. E mi pare, Alberto, che non sia strano il fatto che la Juventus nella ripresa, tolta il fatto che il Milan fosse rimaneggiato, Nesta fuori eccetera, non mi sembra neanche così strano che nella ripresa Vucinic abbia fatto le cose migliori con uno che parla la sua stessa lingua, cioè Del Piero. Del Piero, difatti, diciamo, questa nostra telefonata rischia di essere stucchevole, perché quando due si trovano sempre d'accordo a volte annoiano. Sì, però così è oggettivamente. Ho fatto pure un accenno nel mio articolo di oggi. Conte, costretto a inserire Del Piero, ha migliorato la qualità della manovra offensiva. Sì, perché anche far giocare, cioè, Matri e Vucinic, insomma, il dialogo è relativo, mentre con Del Piero l'intesa è spontanea. Beh, è anche normale che in una squadra che si sta costruendo, una certezza non possa che essere questo linguaggio comune tra Del Piero e Vucinic, che comunque sono due giocatori che con la palla tra i piedi sanno cosa fare e dove andare, insomma. Per quanto riguarda il Milan, Alberto, normale che parta un po' per il viaggio campionato con delle certezze, quantomeno rispetto a tutti gli altri. La Juve appunto in costruzione e un Inter con mille dubbi, sì, un sacco di problemi e richieste di acquisto. Un vuoto d'organico, perché appunto ieri l'Inter non ho visto la partita, però leggendo le dichiarazioni del suo allenatore si capisce che questo lancia un SOS alla società, e l'organico, a suo dire, è tutt'altro che completo, quindi l'Inter c'ha anche qualche altro problema appunto di organico, ha detto del suo allenatore. Il Milan, a mio parere, l'ho dimostrato anche la partita di ieri, soprattutto il primo tempo, quando la squadra si è trovata ad occhi chiusi, anche con questi lanci, diciamo, sulle fasce, apro parentesi, credo che Abate ieri abbia fatto più discese e cross dal fondo che negli ultimi tre mesi del campionato, proprio perché Vidal opponeva una resistenza inesistente. Il Milan si trova a occhi chiusi, e quindi, anche se le assenze sono importantissime, perché Ibrahimovic è mezza squadra quando è in salute, Pato, Robinho, anche Thiago Silva e poi Boateng. Eppure, ecco, questo è il vantaggio di non avere cambiato allenatore e di conoscersi a memoria. Sì, il Milan ha avuto i problemi della Juve lo scorso anno, sicuro, un anno fa, quando l'allenatore era nuovo e una squadra senza certezze, e ha avuto la fortuna nei primi 3-4 mesi che il signore Ibrahimovic se la sia caricata sulle spalle e l'abbia praticamente portata a vincere una serie di partite che hanno costruito, che hanno dato tempo ad Aquila, che hanno dato tempo ad Allegri di costruire la squadra, esatto, che adesso la squadra ha acquistato fiducia e sicurezza. Sicuro. Devo dire la verità che però Allegri, a differenza di Conte, mi sembra un allenatore molto duttile, come secondo me dovrebbe essere un allenatore che almeno aspiri a fare una carriera a livello. Sono d'accordissimo. Allegri si è reso conto dei giocatori che aveva, li ha studiati un po', ha cambiato alcune posizioni, ma non è partito come Conte con questo 4-2-4, che ripeto è un sedicente 4-2-4, ma sì, un 4-4-2, lo stesso che faceva Del Neri, e soprattutto non ha imposto cessioni, non richiede acquisti, anche che al giorno d'oggi, voglio dire, comprare i giocatori non è certamente non è semplice, in alcuni casi non è nemmeno possibile. Non è possibile, quando è possibile devi strapagarli, questa è la verità. Alberto, io ti ringrazio. Di niente. Ti abbraccio, grazie ad Alberto Costa, con cui abbiamo aperto vari fronti di discussione. C'è chi scrive via SMS 349-238-6666 senza firmarsi, un po' presto per massacrare Conte o no? No, secondo me sono valutazioni invece da fare ora, perché mi pare che Conte e anche Luis Enrique, se vogliamo dirlo, che può essere un po' il peccato originale degli allenatori giovani, si sia approcciata a questa grande occasione con un po' di presunzione. Questa è la mia sensazione, non è un massacro, semplicemente un'opinione. Non so se anche la vostra. 800 24 00 24 è il numero verde, mentre potrebbe essere il giorno di Aquilani al Milan, ma anche di Forlan all'Inter. Leggevo prima un'agenzia secondo cui gli emissari di Forlan stanno parlando a Milano con l'Inter, mentre per Eto'o oggi sarà il giorno dei bagagli, delle valigie, poi parliamo anche di Eto'o. 800 24 00 24 per far sentire la vostra voce in A Tempo di Sport, che riprende, vi terrà compagnia tutti i giorni come sempre per tutta la stagione a partire da oggi, ferie finite. C'è chi scrive 349-238-6666: se si fossero ricordati com'era la Fiat 1 16 valvole con cui Conte arrivò a Torino da calciatore, si capiva che non ha lo stile Juve. Mi sembra semplicemente una battuta, perché insomma Conte è uno che alla Juventus è di casa, che ha vinto al di là dello stile, di tutte queste cose. Dario, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei e bentornati, finalmente ricominciamo. Grazie, grazie. Cosa bellissima. Grazie. Due cose velocissime. Visto la partita ieri sera, devo dire, faccio una domanda. Lei, il Milan, di cosa avrebbe bisogno per migliorare? E poi, se mi è permesso, mi sembra sempre che alla Juve negli ultimi anni gli manchi il coraggio di vincere. Io sono milanista, però ieri sera in primo tempo aveva quasi paura a affrontare i giocatori del Milan. Timore, non so se è dovuto al fatto che ultimamente è andata male. Mi sembra di vedere l'Inter che prima di arrivare, non perché io Massimo Mourinho assolutamente, ma un allenatore cattivo che gli diceva bisogna giocare, battersi e combattere. Infatti io ho sempre pensato e lo penso tuttora che la Juventus servisse un allenatore di grande esperienza internazionale, di grande carisma e con un certo feeling con la vittoria, cosa che Conte a inizio carriera non ha al momento. È chiaro anche che la Juventus affronta ogni stagione con un masso sempre più pesante di pressione sulle spalle, sulla scorta di quelle solite mille voci relative al 2006, eccetera, eccetera. Morale, la Juventus è obbligata a questo punto a vincere. Mi domando se Conte sia il condottiero necessario. Torno a ripetere, a me come struttura la Juventus piace, a partire dal primo acquisto stagionale, cioè quello di Pirlo, che... inutile stare a parlare del giocatore Pirlo perché lo conosciamo tutti, però è uno che alla Juventus serviva perché è uno che conosce la strada per la vittoria. Vucinic, ripeto, è uno dei giocatori, degli attaccanti anche più sottovalutati del mondo, secondo me, perché viene trattato come sempre come giocatore di seconda fascia, mentre per me è un attaccante di primissima fascia. Morale, a me la Juventus come organico piace. Chiaramente la partita ieri sera fa testo zero, perché c'era una squadra che è campione d'Italia, che ha lavorato tutto l'anno e che ha meccanismi consolidati e che ha una genesi, che ha un profilo, che ha un percorso di crescita molto chiaro, che prima Alberto Costa ha esposto in maniera esemplare, secondo me. Cioè l'anno scorso il Milan ha avuto la grande idea, la grande intuizione, la grande fortuna, se vogliamo, di riuscire a mettere le mani su Ibrahimovic, che ha coperto con tutto quello che ha, compreso il carisma, compresa la rabbia, compresa la cattiveria, compresa l'attitudine alla vittoria, ha coperto i problemi di crescita. Poi pian piano il Milan è diventato squadra e avete visto che nel finale di stagione il Milan era il Milan con o senza Ibrahimovic. Francesco da Torino, buongiorno. Buongiorno, io ho chiamato per sapere anche la sua opinione a riguardo di Abate. Come mai un giocatore come Abate, visto il ruolo che copre, che è terzino destro, non riesce a trovare spazio in nazionale, considerato il campionato scorso e anche come ha cominciato quest'anno? Grazie. A lei, sono d'accordo, anche a me Abate piace molto. L'anno scorso, a mio parere, parlavamo di giocatori sottovalutati, è stato uno delle chiavi più importanti nella costruzione del Milan. È giocatore, non dimentichiamolo, partito quasi come attaccante di fascia, comunque come esterno di centrocampo, che è stato reimpostato a difensore laterale e sta crescendo, è uno dei giocatori in crescita e credo che le porte della nazionale si apriranno per lui, perché non ce n'è tantissimi con quelle caratteristiche, soprattutto nel cross in corsa. Abate, a mio parere, ha pochi rivali. Achille da Milano, buongiorno. Poi sentiamo anche un po' di voci di ieri sera, compresa quella forse di Berlusconi. Ce l'abbiamo, no? Non ce l'abbiamo, quella di Berlusconi che dice, cos'è che ha detto? Che Cassano, bene Cassano, mi suggerisce Fabio Cantadori della regia, bene Cassano, ha qualche problema, qualche incertezza, non benissimo Cassano, però al Premier è piaciuto. Ha detto Aquilani sì, Kakà no, forse sì, vedremo. E, insomma, Milan prenderà Aquilani. Cosa può servire Aquilani al Milan? Un'altra bella domanda, secondo me. A me Aquilani piace. È giocatore con quelle caratteristiche da mezzala, per cui si è favoleggiato per tutta l'estate questa storia del Mister X. Certamente il Milan, e anche qui sembra un po' di scoprire acqua calda, da diverse stagioni il Milan ha bisogno di svecchiarsi anche dietro, però è chiaro che con Seedorf a fine carriera, con i vari giocatori a fine carriera e a fine contratto peraltro, Ambrosini stesso, Gattuso eccetera eccetera, uno come Aquilani può servire altro che ad Allegri. Achille da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. È vero, se il Milan ha bisogno di svecchiarsi, io chiedo delucidazione a lei, un aiuto veramente, che cosa ha bisogno l'Inter? Perché nel 2009-2010 finalmente ritorniamo sul tetto del mondo, costruendo un gruppo compatto, importante, e da lì, invece di essere l'inizio di un ciclo, è stata l'inizio della fine. A oggi mi sembra di rivedere l'Inter. Ma Achille, ma secondo me il ciclo è finito nel momento in cui l'Inter ha vinto la Champions League. Il ciclo probabilmente è finito in quel momento lì, perché va via il gran capo tribù, Mourinho. Sul Prato del Bernabeu, e questo non lo dimenticherò mai, Milito chiede grosso modo di essere ceduto. È una squadra anagraficamente anche piuttosto in là con gli anni. È chiaro che l'Inter ha bisogno di essere rifondata. Non mi sembra che ci siano idee chiarissime sui progetti di rifondazione. Questo credo sia l'aspetto più preoccupante. Se lei mi dice di cosa ha bisogno, io leggo il numero dei gol subiti e le dico che stiamo parlando del grande capo Mamba che stasera volerà in Russia. Quindi tutti diciamo... Ma a proposito, ecco, cosa ne pensa di Eto'o? Perché l'ho trovato una cosa molto interessante, un argomento di discussione molto interessante. Rinuncia a 30 anni a una carriera al vertice, rinuncia allo status di superstar internazionale per andarsi ad imboscare ai confini del mondo calcistico, facendosi ricoprire d'oro. Questo a 30 anni. È un professionista. Io sinceramente non mi unisco al coro della demagogia che dice però questi pensano solo ai soldi eccetera, è un professionista e salta su questo treno, male non fa. Guardi, il mio pensiero riguardo è questo, che comunque, come lei mi insegna, ormai giocatori attaccati alla bandiera, alla maglia, la marcor che c'era una volta nel calcio non esiste più. Parliamo comunque di un giocatore che rimarrà lo stesso leader della sua nazionale in ogni caso. E probabilmente, sicuramente la vetrina è di secondo livello, però è anche vero che lei dice demagogia, il denaro purtroppo... Il denaro è importante anche perché già ne guadagna a sufficienza per sé e per le prossime generazioni, a quanto pare non basta, perché sennò avrebbe scelto l'Inghilterra a parità d'ingaggio o la Spagna o situazioni che sicuramente l'avrebbero accettato a pari condizioni dell'Inter. Io credo questo, insomma. Sì, no, certamente a pari condizioni probabilmente non sarebbe nemmeno andato via, no? Perché io alle sfide professionali per un 30 anni ci credo poco, però secondo me è corretto che per un professionista se si presenta un'occasione di questo tipo a 30 anni, beh, insomma, non vedo perché rifiutarla. Secondo me è andato a dire all'Inter: loro mi danno questo, non è che mi date qualcosina in più anche voi. Evidentemente non ha trovato rispondenza dall'altra parte, non ha trovato risposte positive, ha detto vabbè, allora salgo sul treno, salgo sulla Transiberiana. E ripeto, per un professionista è un discorso anche logico. Franco, Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Detto questa cosa ovvia, in sintesi, io mi considero un juventinologo più che juventino, uno studioso. Sì. E diciamo che secondo me il peccato è sempre originale. Cioè non abbiamo una società all'altezza, perché Conte è stato scelto dalla società. Non so se il signor Marotta è in grado di gestire, e quanto sia il suo potere è in grado di gestire la Juventus, perché siamo dentro ai soliti problemi. L'allenatore vuole certi giocatori, la società ha altre esigenze o altri equilibri, e tutti gli anni cambiamo 10-11 giocatori. Sì, spendendo un mucchio di soldi, e io aggiungo un'altra frase fatta, vincere aiuta a vincere, e la Juventus in questi anni è nel vortice contrario, quindi non so se dica. Chi ha visto la partita ieri sera ha avuto un input molto semplice. Noi nel primo tempo eravamo terrorizzati, cioè ci sono dei giocatori che forse si sono resi conto di non essere all'altezza. Ma però, cioè, Franco, essere terrorizzati per un trofeo Berlusconi il 21 di agosto non è la finale di Champions League. No, ma certo, però probabilmente l'apprensione deriva dal fatto che giochi contro una squadra che è squadra vera, che è campione d'Italia, che sai che sono comunque molto più strutturati, molto più organizzati in questa fase in cui anche quella corsa, come si diceva con Alberto Costa, è indispensabile per questo bizzarro modulo di Conte, è necessaria, non ce l'hai nelle gambe, è evidente che insomma la sfida fosse impari. È una squadra embrionale, però ripeto, secondo me con tanta buona stoffa, perché ripeto, a me dal punto di vista organico la Juventus piace, è una squadra embrionale contro la squadra campione d'Italia. È anche normale che nel primo tempo, quindi partendo freschi entrambi, si finisca in questo modo, cioè il Milan prende a pallonate la Juventus che si difende come può, poco in realtà. Canda Brescia, poi ci fermiamo per la borsa. Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Dica. Io voglio parlare delle Juve di Mina di ieri. Sì. Adesso un vergogna per fare TV, per farlo supportare le Juve per un straniero, secondo me. Sì. Perché la Juve di anno 98, la Juve di anno 2002, sì, non c'è più. Adesso la Juve, hai visto le squadre che loro non guardano la qualità di giocatore, ma loro guardano le colore di giocatore. E per questo motivo ci hanno fatto tanti spiegare. Cioè, lei dice, aspetta un attimo, lei dice che la Juventus non prende giocatori di colore? Sì, aspetta, ho capito bene. Aspetta io finire. Perché la Juve del 2005, la Juve del 2008, la Juve anche il 99 non c'è più. Adesso tutti gli stranieri, noi vergogna per dire che io sono un juventino. Sì. Noi tutti persone colore, adesso vergogna di dire io sono un juventino. Finché la Juve non cambia idea, non vinci più niente. Perché tutta la sai che la Juve adesso tutto è cambiato. Sì, però non guardi, Milan posso dire con gli stranieri, però io posso dire non credo ci siano intenti. Non voglio dire una parola brutta per la Juve, bisogna cambiare la faccia, perché adesso la Juve una brutta faccia adesso. Un bruttissimo faccia per i giocatori stranieri. Sì, no, ma insomma, io non credo ci siano plausibili discorsi di questo tipo. Cioè, non credo che ci sia che la Juventus scelga i giocatori sulla base del colore della pelle. Questo mi rifiuto totalmente di pensarlo. Credo siano, sinceramente, molto semplicemente delle circostanze. Può sbagliare i giocatori, ma non sulla base di questi parametri, assolutamente. Ragazzi, siamo tornati. 800 24 00 24 per parlare di sport ogni giorno dalle 2 alle 3, sabato e domenica compresi, in orari diversi naturalmente e adeguati alle esigenze del campionato che va a cominciare. 800 24 00 24 numero verde, messaggi 349 238 6666. Mi sembra che lasciare un paese in bancarotta per andare a lavorare in un'economia ricca e in crescita sia una cosa abbastanza naturale. Forse non abbiamo ancora capito che l'Italia non è un paese così importante. Riferito alla questione di Eto'o, sì, però mi pare che si muovano lor signori con il pallone tra i piedi, si muovono su logiche un po' diverse, insomma, vedete, comunque i suoi 10 dall'Inter o giù di lì e tu li avrebbe presi o a prendere nel doppio in Russia. Credo che le logiche per quanto riguarda il calcio, lo sport in generale, siano un po' diverse rispetto a quello del paese comune, no? Sia un'economia, si muove un'economia naturalmente fittizia, molto diversa rispetto a quella con cui facciamo i conti noi tutti i giorni, benedetti o maledetti. Andrea Rimini, buongiorno. Buon pomeriggio Carlo. Buon pomeriggio Andrea. La trasmissione. Grazie. Allora, io chiamavo perché ho sentito un intervento poco fa di un ascoltatore su Abate. Sì. Mi chiedeva come mai non giochi in nazionale. Sì. Io invece mi chiedo come mai giochi nel Milan. Perché in nazionale gioca Maggio, che mi sembra molto più forte di Abate. Tu cosa ne pensi, Carlo? Io ne penso che non mi sembra così più forte. Mi sembra che Abate sia un eccellente giocatore. L'anno scorso, ripeto, è chiaro che è un soldato semplice, no? Non è un gallonato, perché è uno che fa il suo, però mi pare che abbia delle qualità da giocatore che non abbonda nel nostro campionato, no? Esterno di fascia, come sacrossare Abate partendo da dietro da quel ruolo ne vedo pochi, Maggio compreso, insomma, mi sembra un giocatore che possa essere utile. A Prandelli, che infatti lo considera, quindi credo che lo vedremo in azzurro. Non noto tutto, francamente, tutta questa abissale differenza tra il giocatore del Napoli e quello del Milan, sinceramente. C'è chi mi rimprovera per aver detto che il modulo di Conte è bizzarro. Sottoscrivo, ripeto, e sottoscrivo e confermo, è bizzarro questo 4-2-4 che insomma, che non mi pare adatto per la stoffa che Conte ha a disposizione, che, torno a dire, è a mio parere di buona qualità, e fatico a comprendere insieme ad Alberto Costa, quindi sono in buona compagnia, quegli allenatori, specie giovani, così integralisti, no? Che invece di utilizzare in maniera intelligente, come peraltro ha fatto Allegri invece in controtendenza, il materiale che hanno a disposizione, chiedono di smontare tutto il pregresso e di rifargli una squadra adatta alle loro idee. Questo mi sembra criticabile, dal mio punto di vista almeno. Giovanni Udine, buongiorno. Ciao, buongiorno Mandi. Allora, faccio subito il discorso che volevo, però mi lascia anche un piccolo cappellino dopo. Intanto, dal mio punto di vista, pare che le pretendenti allo scudetto siano quelle che hanno un determinato nome più che un determinato organico. Perché se si parla di pretendenti allo scudetto come la Roma, secondo me la Roma è veramente una squadretta quest'anno. La Juventus, la Roma è una squadra da scoprire. La Roma è una squadra, non la vedo da scudetto, questo, No, ma infatti, però, nella vulgata pare che la Roma, come la Lazio, anche la Juve, siano squadre che pretendono pretendenti o presunte tali. Il Napoli dove la mette? Il Napoli lo metto sopra la Juventus, sicuramente sì, se non altro perché hanno, perché è una squadra, la Juventus una struttura, una struttura già ben consolidata, un allenatore che mi è personalmente antipaticissimo, il più antipatico mi è solo Novellino, ma è personale. Perché però è bravo, Novellino? Però è bravo, cioè non mi tolgo il cappello, è bravo, ha creato una cosa che Ma perché l'è antipatico Novellino? Ma perché mi si consenta, fa consenta. No, poi il Cecchi, no, il Cecchi Gori, come il cioè, sa menare l'asino sul ghiaccio, come dicono da noi. Meno l'asino sul ghiaccio, no, come gli altri. È bravo, ma perché chiaramente ha una piazza mica da ridere, cioè, bisogna starci attenti là, c'è una passione folle, ti spianano. Ma se poco di cosa stiamo parlando, di Novellino o di Mazzarri? No, parlavo di Mazzarri, no, Novellino, lasciamo perdere. Ma perché è antipatico Novellino? Io non capisco questo. Ma perché è presuntuoso, non era, cioè, dal mio punto di vista è presuntuoso, cioè, anche quando allenava squadre tutto sommato di rango, o perlomeno di buon livello, mi sembrava Biagi, ogni volta che gli capitava qualcosa era sempre colpa di qualcun altro. Vabbè, ma non era per chiamato. No, ma comunque sono d'accordo, Mazzarri è molto bravo a menare l'asino sul ghiaccio, come dite a voi. È evidente che oggi il Napoli è davanti alla Juventus nel ranking, no? In questo ipotetico ranking. Però non se ne parla, vuol dire, anche squadre come, adesso magari sono di parte, ma come l'Udinese, che ogni anno, allora, aspetti, arrivano ad alto livello, ma non sono così, anche adesso, ma però senza Sanchez e Inler adesso vediamo. Io Giovanni la ringrazio, perché devo passare al prossimo ospite che ha una certa fretta e avrei interesse anche per chi vuol sapere cosa succederà, a parlare con Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport. Mercato di angoscia per gli interisti, dicevo, che vedono partire il gran capo Mamba, leggono sui tabloid britannici di questo continuo flirtare tra Snyder e Manchester United e scoprono diversi buchi, qualcuno in attacco, altri in difesa, visto il monte gol subiti. È un'organizzazione da rivedere. Carlo Laudisa, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senti, c'è un caro amico e collega che mi ha mandato prima un sms con le sue personali pagelle dell'estate. Estate dei dilettanti: Marotta 4, Sabatini 3, Branca Moratti 3,5, Zamparini 2, Pozzo 1. Abbiamo speso come gli altri, ci siamo indeboliti, mi ha scritto il mio amico. Ma cioè, dalla rotazione precedente posso 10 direi, sì, perché comunque è andato poi l'Udinese all'Emirates e abbiamo visto giocare più l'Udinese che l'Arsenal, quindi sì, sì, questa era una battuta ovviamente, certamente questa è un'estate più amara delle altre, ma visto il contesto mi sembra anche così leggero come considerazione, perché i problemi economici sono tanti e tali per tutti noi, non era pensabile che il calcio ne rimanesse fuori, anzi io credo anche che sia un bene, sì, che il calcio tocchi con mano qual è la realtà, che si faccia carico anche di tante dissolutezze finanziarie commesse nei decenni. Sono d'accordo. Senti, ma leggevo oggi sulla stampa, l'avrai letto anche tu, sorpresa, la Serie A in attivo, scrive questa analisi Roberto Condio, collega, con la cessione di Eto'o diventa positivo il saldo con l'estero nel 2010, rosso di 36 milioni. È un calcio più ragionatore, più risparmiatore? Beh, è un calcio che nell'import export, che è il dato espresso da questa inchiesta, sicuramente abbiamo venduto i pezzi pregiati, abbiamo investito su dei giovani di cui ancora non conosciamo esattamente la statura tecnica, sicuramente c'è stata una tendenza a spendere con più oculatezza, forse, e qui magari quel voto alla Roma basso, la mela è costata un po' troppo, perché comunque sia la mela è il gioiello di una società gloriosa quanto vogliamo, ma che era retrocessa, quindi forse meno frenesia in quel momento avrebbe permesso di prendere questo giocatore anche a qualcosa meno. Certo, certo, anche perché che l'Inter era soffiato il Gelorossi Alvarez per 11 milioni e mezzo. Sì, anche perché la mela forse è uno sfizio che può togliersi una squadra già costruita con tanti soldi, insomma, pagarlo quella cifra in effetti è un lusso che forse non si poteva permettere, sì, o una grande scommessa, o una grande scommessa. No, ma infatti, detto questo, va però il nuovo management giallorosso ha un grande alibi, è partito in clamoroso ritardo non per colpa dei presenti, naturale, ma perché il cambio è avvenuto quando il mercato era ormai già partito. Naturale. Questa senti Alberto, ma di Gasperini che fa il Benitez, ci servono tre rinforzi, poi gliel'hanno fatto notare, lui ha detto no, ha fatto anche il sarcastico, noi infortuni muscolari non li abbiamo avuti, per la verità abbiamo venduto qualche giocatore. Beh, su questo ha ragione, perché temporalmente cade a fagiolo il paragone con Benitez, però il Benitez un anno fa in realtà non aveva avuto cessioni. Certo. E certamente questo dietro a cui evidentemente Gasperini ha preparato il punto di svolta per rinforzare la rosa, perché oggettivamente ci sono dei problemi proprio numerici al di là della qualità, quindi in questo caso la società è dalla sua parte, quindi non dobbiamo temere una rabbiatura di Moratti su questo, come avvenne invece nel caso di Benitez, dove c'era un'impuntatura presente sul Mascherano, sì, che Benitez si voleva, mentre i senatori dello Squadrone Nerazzurro avevano votato contro. Sì, sì, sì. Questa era la storia di una ma adesso chi arriva banalmente all'Inter? Leggevo prima, non so se hai conferme sugli schermi di Sky quest'ultima ora, per cui gli agenti di Forlan sono a Milano. Ci sono idee chiare su chi rimpiazzerà Eto'o? È buffa la storia del procuratore di Forlan, perché sta stazionando, va per dire, perché poi frequenta sempre i migliori posti della città, da almeno 4 giorni qui a Milano in attesa di udienza, forse l'avrà oggi. La sostanza è che su Forlan c'è anche il Paris Saint-Germain, sì, la sostanza nerazzurra dice che nonostante Mancini non voglia sentir parlare di prestiti, l'Inter ha la segreta, neanche tanta speranza, che Tevez invece punti i piedi e chieda di avere questo privilegio, ecco perché in questo momento resiste sempre la candidatura di Tevez, anche se le condizioni del ginocchio di Balotelli non aiutano l'argentino, perché anche Mancini potrebbe avere le stesse di giocatori, sì, sembra paradossale dirlo, ma si sta verificando questa situazione. Sì, sì, sì. A parte però, 50 per Tevez neanche dipinto, io rispenderei. Neanche averli come c'è l'Inter, sì, perché sì, 50 milioni per Tevez, che parlavamo prima di giocatori sottovalutati. Ecco, Tevez è l'esatto opposto, mi sembra un giocatore molto forte, ma estremamente sopravvalutato, no? In rapporto a... a quanto ha fatto nel complesso in, in carriera. Un'ultima cosa, Carlo, la, la Juventus cederà alle richieste del suo allenatore che vuole un esterno, prenderà un difensore centrale, che fa? No, proverà a prendere entrambi, e con l'opzione abbastanza concreta di un terzo incomodo che è già chiarito al Cesena. Ah. Perché l'affare dovrebbe essere confuso, se non oggi, domani, uno scambio con Martinez. Per quel che riguarda l'esterno alto si fa sempre il nome di Elia, di Perotti, e in caduta libera invece la candidatura di Vargas. E per il difensore piace molto Alex, c'è la, sempre anche in questo caso un nome sudamericano, quel Coates, che ha ben fatto l'ultima Coppa America, quindi c'è ancora tanta carne a cuocere per la Juve. Grazie Carlo, un abbraccio. A voi, grazie, un abbraccio, ciao. Grazie, ciao. Intanto c'è questa notizia meravigliosa a proposito della gente di Forlan, che è da giorni a Milano a dire: scusate, sarei anch'io, posso salire sotto la sede dell'Inter? E dicono: aspetta, tu stai lì che abbiamo da fare. E allora è andato probabilmente a farsi spiegare dagli agenti di Eto'o come si fa, perché l'agenzia dice: gli agenti di Eto'o e di Forlan a pranzo insieme oggi a Milano. Questa è divertentissima. Dunque torniamo, Roberto da Belluno che scrive: Vidale uguale a Giovinco, come, e come lui è finito in fascia, il Parma se l'è già prenotato. Non credo che sia così, anche perché al di là del Parma se l'è già prenotato, questa è una chiara battuta. Non credo sia così uguale a Giovinco, anche per quel poco che l'ho visto in Bundesliga l'anno scorso. Mi sembra un giocatore molto interessante ed estremamente duttile, non soltanto trequartista, ma giocatore anche in grado di giocare sulla linea dietro del centrocampo. È un giocatore che, a differenza di Giovinco, ha una gran forza fisica, quindi è un giocatore estremamente duttile, estremamente interessante. Certo che se lo fai giocare alla sinistra non è proprio il suo mestiere, questo mi pare evidente, l'abbiamo capito dopo 30 secondi anche ieri sera. Stefano da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno signor Genta, la ringrazio. Grazie a lei. Senta, allora, 100 milioni di plusvalenza leggo sui giornali per Eto'o. Sì. Moratti fa molto bene, se lui vuole andare a giocare in Russia fa molto bene. Ma chi... e se Ferguson... Chi, prego, dice, chi dice il contrario? Io sono d'accordo. Io sostenevo la mia opinione. Allora, se poi Ferguson ci offre 30 milioni di euro per Sneijder, meglio, parta pure lui. Secondo me il progetto dell'Inter per i prossimi anni, se Moratti ha questa pazienza, e di affidare a Gasperini una squadra di giovani validi. Secondo me, ho visto Jonathan, mi sembra un bel giovane. Ho visto Faraoni, mi sembra valido. Sì, ma per cosa si gioca, Stefano? Per quali... quest'anno sicuramente per non vincere. I cicli cominciano sempre facendo delle cose. Io punterei su dei giovani e rinforzerei il centrocampo. Poi prenderei un difensore. Però il difensore, secondo me, può anche essere un discorso di come gioca la squadra. Ieri abbiamo giocato senza Lucio, però Stefano, potrebbe essere una discussione molto lunga, anche se interessante. Io sono d'accordo sul fatto che l'Inter è da ricostruire, lo era già l'anno scorso dopo aver vinto la Champions League, perché va via Mourinho, i giocatori sono in là con gli anni. Abbiamo sbagliato a non vendere Milito, lo dicevamo, però è un peccato anche comprensibile, perché insomma arrivi lì dove sei arrivato dopo tutti quegli anni, soprattutto da Moratti un po' di affetto te lo aspetti, no? Per quella squadra che ha vinto tutto. Però il fatto che fosse andato via Mourinho, che era comunque il vero catalizzatore di quella squadra, poteva anche portare a ripartire da qualcosa di diverso. La mia sensazione è che l'Inter non ha ben presente questa esigenza e di bilancio e di rifondazione, però non abbia ben chiare le linee da seguire, a cominciare dall'allenatore, che mi sembra sia stato, la vicenda Leonardo la conosciamo, sia stato preso non come l'allenatore del futuro, l'allenatore con cui ripartire, ma come un allenatore forse più pilota di traghetto che altro. Non so, anche se a Gasperini non lo auguro, gli auguro ovviamente, visto che è un allenatore molto bravo, molto serio, lunga carriera ai vertici, però non mi sembra che ci siano delle linee molto chiare di rifondazione della squadra. Questa è la mia sensazione. Certamente si sta facendo cassa in questo momento. Poi se lei mi dice di Jonathan o di Alvarez, allora io le domando: ma per che cosa si gioca? Per lo scudetto? Non credo. Per la Champions League? Men che meno. Dunque, che cosa vuole fare l'Inter, la domanda mi pare sia legittima. Andrea Ravenna, buongiorno. Ah, buongiorno a lei, dottor Genta. Salve, dica. Niente, volevo dirle che dopo 4 anni, sto parlando come tifoso juventino, dopo 4 anni di sperperi e di incompetenze avevo puntato anch'io molte speranze su Conte. Sì. Verso il quale comincio a nutrire delle forti perplessità. Intanto sono d'accordo con lei, non pensavo che avesse questa impostazione così fondamentalista. Beh, ma l'aveva detto, no. lo sapevamo benissimo, no? Sì, vabbè, però un conto il Siena, il Bayern, un conto è... Dopodiché allora non capisco perché non punta subito sui giocatori che sono attinenti al suo modulo. Cioè comprare Vidal... vuol dire rinunciare a uno come Marchisio, quindi continua la storia della Juve che non crede nei propri giocatori, prima Nocerino, poi Crisito, poi Giovinco, no? E non capisco perché non va a comprare invece questi famosi esterni. Però siamo sempre Andrea, però siamo sempre lì. Sembra che non sia un grande genio del mercato. No, Marotta anche lui non a caro prezzo e no, beh, Marotta e gli altri prima di lui, insomma, Marotta anche Marotta ha la prima esperienza in un top club europeo, ho preso un totale, no? Quindi qualcosa ha pagato anche lui a questa sua prima esperienza in un livello così elevato. Certo è che se ogni allenatore che arriva dice questa squadra non va bene, questi giocatori mi fanno schifo, non va bene per il mio modulo che io non cambio perché io vivo e muoio per questo modulo, allora me ne comprate degli altri, e allora lì si continua a smontare la squadra, a rimontarla di anno in anno e di vittorie non ne arrivano. Questa scarsa duttilità di Conte mi sembra un limite, ma sul quale io non avevo dubbi sul fatto che Conte, conoscendolo un pochino, insomma, sarebbe arrivato lì e avrebbe detto: con me si gioca in questo modo. Non, è un po' diverso rispetto ad Allegri, che invece l'anno scorso gli hanno detto: guarda che Ronaldinho deve giocare. Ho detto: benissimo, Ronaldinho gioca. Poi con altri mezzi un po' più sottili ha fatto capire che Ronaldinho non serviva poi più di tanto, allora Ronaldinho è andato via, il Milan ha acquisito una fisionomia molto logica e ha vinto lo scudetto e adesso è la squadra da battere, secondo me, ai nastri di partenza del campionato. Michele da Torino, Luca da Monza, Marco da Milano, e poi aggiorniamo la seduta domani alle 2, dalle 2 alle 3. Ci saremo tutti i giorni come sempre, come è sempre stato, insomma. Michele, buongiorno. Buongiorno Carlo. Salve. Senti, mi dica qualcosa di Cassano. Io ieri ho visto un giocatore che secondo me è formidabile, vuol darsi che mi sbaglio. Però su tutti i giornali di oggi non trovo accenno. No, perché? No, perché non... Si parla appena appena un trafiletto su un giocatore che ieri secondo me ha fatto delle bellissime cose. Vengono esaltato molto di più gli altri che lui. Non riesco a capire perché questo giocatore non riesce mai a essere in prima fila. È perché si mette dietro da solo, è per quello non riesce mai a mettersi in prima fila, perché per tutta la carriera non ha fatto altro che tentare di raggiungere con tutti i mezzi l'ultima fila, quando avrebbe potuto essere un giocatore di prima fascia fin da quando aveva 20 anni, ma chiaramente con un'altra testa, che stiamo a fare sempre i soliti discorsi. No, io non lo so, Cassano ha l'ultima grande occasione importante della sua carriera, non mi sembra, considerata anche la forma fisica, la stia affrontando nel migliore dei modi. È chiaro che Allegri ha detto deve guadagnarsi il posto, se vuole essere titolare deve comportarsi a professionista e tutte le cose che sappiamo, no? È chiaro che in questo momento ha davanti degli altri giocatori, non so se avrà la forza e la rabbia, cosa che non ha mai avuto, per guadagnarsi i galloni da titolare. Se avrà quella forza e quella rabbia, allora forse riuscirà a risalire le fila, come dice lei. C'è da augurarselo anche e soprattutto forse in chiave azzurra. Luca da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, complimenti. Grazie. Senta, io sono juventino e credo che il problema maggiore della Juve siano due. Uno è la questione di equilibri, che nel calcio sono fondamentali. Certo. Lo dimostra il fatto che Ranieri, con giocatori molto più scarsi, ha fatto 2 secondi posti con un sacco di punti. Ed è stato spernacchiato da un sacco di gente. Perché si ascolta sempre troppo la tifoseria. Come in questo caso si è ascoltata la tifoseria, è stato preso Conte, che usa questo modulo integralista. Però... secondo me c'è un grosso problema, cioè io ho giocato a pallone, ho fatto il difensore, secondo me Chiellini è il più scarso difensore centrale che ci sia in Italia. Lei esagera, sempre sì. Fuori posizione. Lei esagera, però lei esagera nel dire che è il più scarso difensore centrale che c'è in Italia, ma è un'esagerazione, credo, voluta, no? Estremismo, ma perfetto. Su questo, sul fatto che sia sopravvalutato, sono d'accordo, Sono d'accordo. Fuori posizione, sì, e sì. Fa giocare male il suo compagno di reparto. Mm-mm. Dimostra il fatto che quando gioca Barzagli e non gioca Chiellini è più quadrata la difesa. Sono abbastanza d'accordo. Buffon prima parava tutto, adesso tanti gol che prima non prendeva adesso li prende, però il problema fondamentale secondo me è l'equilibrio della squadra, perché anche Krasic non è un giocatore che fa tutta la fascia e per fortuna hanno preso Lichtsteiner, che invece corre tanto e si preoccupa soprattutto di difendere, meno male. Sì, sì. Guardi, mi metto sull'attenti di fronte a questa analisi che condivido. Ha giocato a calcio, io no. Ma si sente, insomma, condivido tutto, anche il fatto che Chiellini sia un giocatore abbastanza sopravvalutato nel ruolo di centrale, non è certo il giocatore, io l'ho detto moltissime volte e è un discorso che è applicabile a tutti gli sport, i veri grandi giocatori sono quelli che migliorano il rendimento dei compagni di squadra o dei compagni di reparto, è chiaro che Chiellini non è un giocatore di questo tipo. La Juventus sta cercando un difensore centrale con altre caratteristiche, non so se Alex con la sua lentezza possa essere l'idea giusta. Marco da Milano e poi aggiorniamo la seduta. Sì, pronto? Pronto, pronto, sono io, buongiorno. Buongiorno, dica. Buongiorno, senta, no, voglio dire una cosa. Questa è la prima trasmissione della nuova stagione. Sì. Ma come me non affrontate quello che mi sembra l'argomento principale, no? Cioè? Dal punto di vista economico. Gli stipendi di calciatore, il fatto che si volevano rifiutare di pagare l'addizionale IRPEF, per esempio. Sì. Poi di quanto costa la FIGC, di quanto costano i dirigenti della FIGC, di quanta gente vive con la FIGC. Ma perché lei è così interessata a questi argomenti? Cioè, no. Alla FIGC, eccetera, no, potremmo no, rapportarla... Siamo nel mezzo di una crisi finanziaria, sì, economica, epocale. Vedo che invece hanno tutti voglia di far ripartire il giostrone del calcio, così, per sviare l'attenzione della gente, su invece quelli sono dei problemi effettivamente. Ma semplicemente il calcio è un passatempo e non credo che sia... Non credo che sia una distrazione tale da distoglierci dai problemi degli altri giorni. Poi ho detto molte volte, non, la demagogia sugli stipendi degli sportivi io non la sposo. Gli stipendi degli sportivi, come quelli degli attori, come quelli dei cantanti, le fa la legge di mercato. Abbiamo finito il tempo, ma domani torniamo anche per fare questi discorsi, se volete. Dalle 2 alle 3, grazie ad Alessandro Balia in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Domani alle 2 ci risentiamo con la Tempo di Sport.